Le condizioni in cui Elizabeth svolgeva la sua pratica medica più di 150 anni fa richiedeva un forte impegno al suo carattere e al suo coraggio. Non disponeva infatti delle risorse dei vari laboratori della radiologia, per cui doveva fidarsi quasi esclusivamente all'osservazione e all'esperienza individuale. I decessi per appendicite o polmonite erano molto comuni ed anche Elizabeth, come ogni medico, conosceva l'ansia della settimana successiva al ricovero o del rimanere sveglia di notte ad ascoltare il passo veloce del marito della sua paziente sulla strada silenziosa che portava la notizia della febbre puerperale. Lei trovava questa lotta che sosteneva da sole eccitante e soddisfacente e inoltre ciò le insegnò la medicina. Le medicine usate venivano preparate da un farmacista che Elizabeth persuase ad accettare ragazze paganti come allievi, con l'intento che nel futuro, una volta trainate, lo avrebbero sostituito. Oltre a ciò, accolse per il training nel suo dispensario tre ragazze che studiavano presso la società di farmacia per raggiungere lo stesso suo diploma, ma nel 1868, per escluderle dalla possibilità di sostenere l'esame finale, la società cambiò il proprio istituto e le tre ragazze andarono a laurearsi all'Università di Zurigo, che aveva aperto l'iscrizione alle donne fin dal 1865. Dopo 4 anni di intensa pratica, la sua reputazione era molto cresciuta e decise quindi nel 69 di iscriversi all'Università di Parigi, che l'anno prima aveva aperto l'iscrizione anche alle donne. Ed Elizabeth fu la prima ad avvalersi di questa concessione, con lo scopo di ottenere la laurea in medicina a patto che potesse sostenere gli esami senza l'obbligo della frequenza. La laurea ottenuta in un'università straniera non sarebbe stata riconosciuta dal registro dei medici britannico, ma Elizabeth ritenne che aggiunta al suo diploma di farmacista sarebbe stato comunque utile. Pur essendo aperta l'iscrizione anche alle donne, l'Università di Parigi, gelosa delle sue tradizioni, accettava al lato della domanda i certificati degli studi preliminari solo se conseguiti alla Sorbona. Sfortunatamente, altre due donne straniere fecero domanda di iscrizione nello stesso momento e il Consiglio di Facoltà, temendo l'afflusso delle donne, non solo in medicina ma anche nel campo della giurisprudenza, delle arti e della scienza, votò contro la richiesta di Elizabeth. Elizabeth si rivolse allora all'ambasciatore inglese a Parigi, di cui era nota l'amicizia personale con Napoleone III, il quale desiderava mantenere una buona reputazione della Francia nelle relazioni internazionali. L'imperatrice Eugénie, che presiedeva il Consiglio dei Ministri durante la malattia dell'imperatore, approvò l'iscrizione delle candidate sotto la sua personale autorità, aggiungendo: "Spero che queste giovani donne trovino imitazione ora che la strada è aperta." Inoltre, lei stessa dichiarò che sperava di aprire un medical college per donne nell'autunno del 70. La laurea, che era stata per 10 anni l'obiettivo dell'ambizione di Elizabeth, stava per essere raggiunta. Il 15 giugno del 1870, all'età di 34 anni, Elizabeth Garrett si laureò, prima donna, dell'Università della Sorbona, discutendo la tesi sulla cefalea, con le congratulazioni dei suoi esaminatori. L'eccitazione che seguì fu descritta dal corrispondente parigino del The Lancet: "In tutta fretta vi scrivo qualche riga sull'evento medico del giorno, il ricevimento della signorina Garrett come dottore in medicina della facoltà di Parigi, che ha avuto luogo proprio in questo momento e al quale ho avuto il piacere di assistere. La sala era letteralmente affollata di studenti e quando la signorina Garrett ha attraversato il cortile per lasciare la scuola, ho osservato con piacere che quasi tutti gli studenti si sono galantemente inchinate alla loro collega donna. Tutti gli esaminatori, nel complimentarsi con la signorina Garrett, hanno espresso opinioni più o meno liberali sull'argomento delle donne mediche e un certo professor Broca è stato particolarmente caloroso ed entusiasta. Nel complesso c'era veramente un'aria di festa intorno alla facoltà." L'intero atteggiamento della stampa nei confronti di Elizabeth era cambiato durante i suoi anni di attività. Persino il British Medical Journal, che non aveva abbandonato la sua ostilità nei confronti dell'idea delle donne in medicina, ammise che "tutti devono ammirare l'indomita perseveranza e grinta che la signorina Garrett ha dimostrato." Al ritorno da Parigi fu in grado di dedicare più tempo alla London Hospital per i bambini, dove era stata chiamata come consulente nel marzo del 1870, alcuni mesi appunto prima della laurea. Importante ricordare che durante l'incontro del consiglio di amministrazione dell'ospedale per valutare i vari candidati, tra cui Elizabeth, il vicepresidente James Chilton Anderson, che era anche un importante sostenitore economico, aveva espresso dubbi sulla sua assunzione. E quando Elizabeth si presentò al consiglio, dopo averla osservata ed ascoltato le risposte alle domande, cambiò idea e non solo contribuì a far votare la sua candidatura come prima donna vincitrice in un ospedale britannico, ma d'impulso si affrettò a seguirla e a parlarle mentre scendeva la scala. James Skilton Anderson sarebbe poi diventato suo marito un anno dopo. Il lavoro medico presso l'ospedale era estenuante. Molti bambini ricoverati erano in condizioni di denutrizione, quasi svestiti. In quasi tutte le famiglie uno o due bambini erano morti ed era straziante restituire un bambino salvato, grazie all'abilità e alla dedizione del personale infermieristico e medico, ad uno squallore, ad una miseria in cui le sue possibilità di sopravvivenza erano minime. Nell'ospedale propose e portò cambiamenti, sia a livello amministrativo che medico, in senso stretto, come i trattamenti, ad esempio, antiparassitari per le pulci, al momento dell'accesso in ospedale, il riordino totale dell'acquisto, conservazione e stoccaggio dei farmaci. Il 18 ottobre del 70 ricevette da parte di una delegazione costituita dai mariti e fratelli delle sue pazienti del dispensario la proposta di candidarsi per l'elezione del nuovo London School Board. Elizabeth lavorava già molto e temeva di parlare in pubblico, ma decise di non rifiutare, scrivendo a Emily Davis, come citato nel libro appunto di Barbara Steven su Emily Davis e il Girton College. Oserei dire che quando è necessario posso farlo e non serve a nulla chiedere che le donne siano assunte nel lavoro pubblico e poi desiderare che evitino la pubblicità. Tuttavia, mi dispiace molto che sia necessario, soprattutto perché non riesco a pensare a nulla da dire per quattro interventi. Il The Lancet dell'ottobre del 70, convertito dal trionfo ad una solida amicizia, si congratulò con Elizabeth per la sua candidatura e dichiarò infine: «Le capacità della signorina Elizabeth Garrett sono così eccezionalmente grandi se messe alla prova degli standard di entrambi i sessi, che nel suo caso metteremo da parte tutte le polemiche sulle donne medico e diremo che è un ornamento per la vocazione che ha abbracciato». Il 2 novembre, sempre del 70, Elizabeth tenne il suo primo discorso pubblico. Non era un'oratrice, confessava di avere un amore morboso per la brevità e la sua voce bassa, piacevole nella stanza del malato, non era adatta alle grandi sale. Tuttavia rispondeva alle domande in modo diretto e la sua onestà le procurava consensi. In questo primo incontro le fu chiesto se riteneva che l'allenamento fisico, ad esempio il nuoto, fosse davvero necessario per le ragazze. Rispose senza esitazione che, come riportato dal Times del novembre del 70, riteneva l'educazione fisica particolarmente necessaria per le ragazze ed il nuoto così utile, tanto che si era esercitata lei stessa per molti anni per perfezionarne l'arte. Tornò spesso sulla questione degli sport per le ragazze negli anni futuri, sempre con la stessa schiettezza. Guadagnò sicurezza tanto da parlare anche all'aria aperta a più di 300 operai che ne erano rimasti conquistati e addirittura riuscì a rivolgersi ad una folla di 1.000 persone a Greenwich, suscitando grande entusiasmo. Si trattava di un risultato importante in un'epoca in cui era abituale chiedere ad un uomo addirittura di leggere un saggio scritto da una donna. E vinse in modo straordinario, distanziando il secondo candidato con più di 3 volte i voti di quest'ultimo. Mentre la rivista delle donne inglesi fornì una semplice spiegazione del suo successo, formando che per diversi anni Miss Garrett ha condotto un dispensario per donne e bambini, la sua gentilezza e attenzione verso i suoi poveri pazienti è stata grande e la sua abilità, crediamo, non piccola. The Telegraph Dichiaratamente ostile, tentò una nervosa scherzosità, scrivendo, come citato in The English Review del gennaio del 71, se Miss Garrett entra una sola volta nella Camera dei Comuni prestando giuramento e prendendo posto con un piccolo fruscio del suo vestito, allora la supremazia dell'uomo è finita. Le parole scritte per scherzo furono davvero profetiche. Infatti, più importante del diploma e poi della laurea a Parigi, che furono conquiste individuali, il suo trionfo nell'elezione del Consiglio Scolastico di Londra segnò una tappa del femminismo, in quanto stabilì per la prima volta un principio generale di estrema importanza. In futuro, laddove le donne fossero state soggette all'amministrazione in qualità di impiegate, allievi, pazienti, prigionieri, indigenti, le donne e le donne qualificate avrebbero dovuto essere rappresentate tra gli amministratori. Elizabeth attribuì senza dubbio il successo all'abilità con cui fu organizzata la campagna, il cui più importante artefice fu James Chilton Anderson. Per la prima volta nella sua vita, Elizabeth era intensamente innamorata e non credeva che il matrimonio dovesse significare la fine della sua vita. Infatti, scrisse alla sorella Millicent 2 giorni dopo il fidanzamento in una lettera del 25 dicembre del 70: «Spero, mia cara, che non penserai che io abbia abbandonato meschinamente il mio posto. Penso che non sia necessario che sia così. E credo che lui se ne rammaricherebbe tanto quanto me o te. Sono certa che la questione femminile non sarà mai risolta in maniera completa finché si penserà che il matrimonio sia incompatibile con la libertà o con una carriera indipendente, e credo che ci siano ottime possibilità di fare qualcosa per scoraggiare quest'idea». A questo punto bisogna rendere noto che Millicent, la sorella a cui Elizabeth scrisse queste righe, era proprio Millicent Garrett Fawcett, attivista per il suffragio femminile, contemporaneamente a Emily Pankhurst, fondatrice dell'Unione Nazionale per il Suffragio Femminile. Elizabeth odiava essere oggetto di curiosità pubblica e di pettegolezzi. Cercò di proteggere i suoi sentimenti, non leggendo mai nulla di sé sui giornali, ma era impossibile escludere ogni commento. Il The Times si chiedeva se avrebbe dovuto essere privata della nomina nel consiglio scolastico, in vista di un probabile conflitto tra i diritti del marito e i suoi doveri di moglie, come pubblicato in un articolo del 71, nel gennaio del 71. Il British Medical Journal, sempre nel gennaio del 71, commentò in termini molto chiari, ma non risolutivi, il fidanzamento. Si annuncia che Miss Elizabeth Garrett, laureata in medicina, sta per sposarsi. Il problema della compatibilità del matrimonio con la pratica medica femminile, che è stata molto discussa, sarà così messo alla prova. Questo metteva le paure più profonde di Elizabeth sul bianco e nero della carta stampata. Aveva riconciliato istituzioni ostili, sarebbe stata in grado di conciliare i conflitti dentro di sé? Era una donna e voleva amare, essere amata ed avere figli. Svegliandosi di notte, sentiva che sarebbe quasi morta per un senso di colpa se si fosse trovata dopo 2 o 3 anni di matrimonio fuori dal campo medico. Il minimo cedimento nell'estenuante programma della sua vita quotidiana, dispensario, ospedale, consultazioni, conti, visite in tutte le parti di Londra, telefonate notturne, i 4 figli della sorella Louis che aveva lasciato il corpo nel 67 e dei quali si era sempre impegnata a prendersi cura, le riunioni del consiglio scolastico, il minimo cedimento, dicevamo, le procurava, come scriveva in una lettera del 31 dicembre del 70 al futuro marito, un'ondata di dubbi sulla correttezza di accettare una felicità così coinvolgente, e confessava: ho timore di scegliere la mia felicità al prezzo del dovere che ho nei confronti delle donne che hanno bisogno di qualcosa che io, in quanto guida, posso dare loro. Il fatto che il futuro fosse stato stabilito fermamente calmò i dubbi di Elizabeth, e l'ultima lettera del 22 gennaio del 71 da lei scritta al futuro marito prima del matrimonio fu piena di speranza e di serenità. Se ti ritenessi incapace di rispondere alle esigenze che il bene comune impone a tutti, e forse in modo particolare a me, incapace di preferirle se necessario all'indulgenza personale, non potresti essere per me quello che tu sei. L'unica conclusione scontata è che non dobbiamo essere resi egoisti dall'amore. Il matrimonio fu celebrato il 9 febbraio del 71 alle 8:30 del mattino, con una semplicità insolita per l'epoca, poiché per gli sposi le forme esteriori significavano ben poco e la loro nuova relazione era tutta. L'unica base possibile per noi, aveva scritto Skilton 2 giorni prima del matrimonio, è il caldo amore personale e l'assoluta verità e franchezza. In base a queste esigenze ideali avrebbero vissuto insieme per 36 anni. All'inizio dell'anno era stato approvato la prima legge sulla proprietà delle donne sposate, in base al quale i guadagni di una donna potevano rimanere a lei anziché passare al marito, ed Elizabeth insistette perché ciò avvenisse nel suo caso, non per sfiducia nel marito, ma perché sentiva che era suo dovere nei confronti del movimento delle donne. Per il bene della sua attività nel dispensario, iniziò la sua vita coniugale nella stessa struttura dove lei già abitava, portando piccole modifiche come una terza cameriera, nuove tende rosse nella sala da pranzo e aggiungendo una stanza essenziale per i fumatori all'ultimo piano. Il marito, vedendola arrancare nel fango e nelle intemperie dell'inverno per rispondere alle chiamate esterne di giorno e di notte, insistette per regalarle una carrozza come dono di nozze. Elizabeth Garrett Anderson aveva il talento speciale di combinare l'eccezionale con il normale. Il suo lavoro pubblico, il suo studio privato, la sua posizione nel mondo medico crescevano fino a riempire le sue giornate con un giro di incontri, visite e consulenze. Dopo cena rispondeva alle lettere per poste e scriveva di suo pugno le note dei casi medici trattati o redigeva relazioni. In questa vita impegnativa si rivolgeva con gratitudine al marito, il suo migliore consigliere, per avere consigli e sostegno. Per una donna volitiva, la compagnia di un uomo dalla volontà ancora più forte era fonte di grande rassicurazione. Si rallegrava dei suoi interessi professionali ed era pronto, se richiesto, ad aiutarla efficacemente, e questa relazione sostiene Elizabeth nell'ampiezza del suo lavoro. Fin dai primi giorni di matrimonio sperimentarono una modalità di vita di coppia basato sullo stare insieme in modo naturale, rivoluzionaria nella loro generazione. Al lavoro vivevano vite separate ed indipendenti, a casa condividevano il tempo libero e il divertimento. Entrambi amavano i libri, il teatro, la buona musica, la conversazione e la compagnia. Il matrimonio, lungi da allontanare Elizabeth dalla vita pubblica, le diede nuovo equilibrio e sicurezza. Da quel giorno, fino alla fine della sua carriera lavorativa, durata circa 35 anni, dimostrò che una donna sposata può avere successo nella professione e che una donna medica non deve trascurare la sua famiglia. Costruì la sua professione credendo che essere una grande medica avrebbe aiutato le altre donne più di qualsiasi altra cosa potesse fare e si dedicò al lavoro pubblico soprattutto a favore delle donne in medicina. Anche nel campo dell'educazione portò il suo contributo. Infatti, come presidente del consiglio scolastico, si trovò molto impegnata dal momento che l'istruzione londinese era inconsistente. In quanto membro del Comitato Statistico Legale Parlamentare, contribuì a redigere un censimento per valutare i bisogni sociali ed educativi di Londra. Votò nell'estate del 71 a favore del regolamento che prevedeva che solo le donne insegnassero alle bambine e alle ragazze, una decisione questa che aprì la possibilità di una carriera professionale a centinaia di giovani donne provenienti da famiglie relativamente umili, e che riscattò i tentativi andati male di Mary Wollstonecraft e delle sorelle Bronte di aprire scuole e insegnare alle ragazze. Sicuramente queste antenate l'avranno sostenuta e ispirata. Propose una mozione, poi approvata, per inserire lo studio dell'economia domestica tra le materie curriculari e inoltre, in quanto presidente nel Comitato dei lavori per le questioni sanitarie nelle scuole, sempre insistette sul fatto che le bambine e i bambini avessero bisogno di luce e di aria, di bagni e di spazi per giocare. Qualche decennio dopo, Maria Montessori avrebbe basato il suo metodo di insegnamento anche su queste semplici ma importantissime norme di salute che Elisabeth aveva individuato e sostenuto. Poiché la sua pratica professionale e la sua vita familiare crescevano, Elisabeth comprese che la sua presenza attiva nel Consiglio scolastico di Londra non era più possibile e al suo posto venne eletta sua sorella Alice. Per lo stesso motivo lasciò la sua attività come consulente nell'ospedale per bambini di Londra. Il lavoro nel dispensario Santa Maria, il suo dispensario, era molto aumentato e a marzo del 71 ritornò da Zurigo Francis Morgan, che aveva frequentato come studente il dispensario stesso e divenne quindi la sua prima assistente. Francis Morgan sposerà poi nel 73 George Hogan, membro della società di ostetrice, professore alla scuola di medicina di Edimburgo e con il quale pubblicò diversi lavori scientifici. Il loro fu il primo matrimonio fra medici. La natura del lavoro nel dispensario era cambiata. All'inizio era frequentato dalle donne e dai bambini dei bassi fondi vicini, affetti da una varietà di disturbi generali. Nel 71 si trattava sempre più spesso di donne provenienti da tutta Londra che desideravano essere curate esclusivamente da donne per le patologie ginecologiche. Elisabeth era angosciata dalle difficoltà di coloro che erano troppo malate per percorrere lunghe distanze ed aspettare il loro turno come pazienti esterni e per questo era costretta a rifiutare molti casi chirurgici urgenti. Con il sostegno del marito, prese una decisione importante. Decise di aprire un nuovo ospedale per donne, attrezzato per ca trattare casi medici chirurgici gravi come pazienti interne. La sua caratteristica distintiva sarebbe stata quella di avere un personale medico ed infermieristico interamente composto da donne. Il nuovo ospedale per le donne fu aperto nel febbraio del 72. Le donne ricoverate erano per la maggior parte gravemente ammalate. La responsabilità di prendersi cura di loro era pesante, ma la soddisfazione grande. Per Elisabeth la chirurgia rappresentava un pesante fardello. Era ancora l'unica donna medica attiva del registro dei medici britannico e per questo rimase per oltre 20 anni l'unico membro dello staff in grado di intraprendere un lavoro chirurgico importante. Nell'anno della sua nascita, i primi esperimenti di Lister, appunto inventore e propugnatore della sepsi, come già detto, appunto un insieme di procedure per prevenire infezioni in campo medico e chirurgico, aveva trasformato la pratica nell'ambito della chirurgia. Per quasi 10 anni molti chirurghi resistettero ostinatamente alla sua conclusione, ma Elisabeth, giovane ed entusiasta, le accettò come una delle più grandi glorie della scienza del suo tempo. E diceva al suo staff: per essere completamente asettici come chirurghi ci vogliono anni di pratiche. Non si può imparare dopo aver trascurato l'infinitamente piccolo, cioè i microrganismi. Elisabeth conosceva i limiti della sua formazione. Ogni operazione le procurava una forte ansia, ma insisteva sul fatto che le donne medico dovessero fare tutto il lavoro professionale richiesto in un ospedale. Sempre fedele al principio che l'ospedale dovesse essere gestito in prima persona dalle donne, si rivolse ad alcuni chirurghi che presenziarono come consulente gli interventi sempre da lei eseguito. Famoso il caso della prima ovariectomia eseguita in Europa e da una donna, considerata un'operazione molto seria e da non tentare in ospedale perché un'eventuale morte ne avrebbe danneggiata la reputazione. Per eseguire tale intervento, Elisabeth affittò parte di una casa privata, le cui stanze vennero pulite e ridipinte e la paziente e le sue infermiere si insediarono. L'operazione eseguita con la presenza di un chirurgo come consulente fu un successo. Il marito di Elisabeth si fece carico di tutte le spese di preparazione. Il secondo caso di questo intervento venne eseguito in ospedale e gradualmente si instaurò la fiducia. Solo dopo molti anni di attività come chirurga rivelò quanto soffrisse prima di ogni importante intervento. Osservare un chirurgo esperto è molto diverso dal farlo da soli. In chirurgia i nervi devono essere allenati e questo può essere fatto solo con un lavoro su se stessi. Credo che sia impossibile per chiunque tranne per coloro che ci sono passati, rendersi conto di quale tremendo costo per i nervi sia tentare una grande operazione, specialmente del tipo di cui non si può avere un'esatta conoscenza precedente delle difficoltà. Ne parlo con sentimento perché so cosa sia. Grazie alla sua determinazione divenne una chirurga generale competente e di eccellente giudizio, conquistando il rispetto dei suoi colleghi. Un critico ostile che l'aveva visto operare poté solo dire: «Ammiro la sua grinta». Nel 73, all'età di 37 anni, era in attesa della sua prima figlia e scrisse e tenne conferenze fino a pochi giorni prima della nascita, rivelando alle donne della classe media un nuovo atteggiamento nei confronti della maternità e sfatando un ennesimo stereotipo, dato che come prima mipere era già avanti con l'età per quei tempi. Alla prima figlia, chiamata Luisa, come la madre, che diventò medica e che scrisse la sua biografia raccogliendo le lettere scritte ricevute dalla madre, seguirono nel settembre del 74 Margaret, che lasciò il corpo all'età di 15 mesi, ed Alan, nato nel 77. Nel 74, dopo 4 anni dal conseguimento della laurea, aveva realizzato un'altra ambizione, quella di essere eletto membro dell'Associazione Medica Britannica, a quell'epoca unica donna. Nell'agosto sempre del 74 giunse a Londra Sophie Jacques Blake. Nata ad Hastings nel 1840, dopo varie esperienze nel campo dell'educazione in Inghilterra e in altri paesi, compresi gli Stati Uniti, aveva maturato l'idea di diventare medica. Il suo intento era di trovare appoggio per aprire una scuola di medicina per sole donne, dopo i fatti di Edimburgo, noti come le Sette di Edimburgo. Sofia aveva guidato assieme ad altre 6 studenti la lotta per il riconoscimento del loro diritto di frequentare e sostenere gli esami presso l'Università di Edimburgo, che era stata la prima ad aprire le porte alle donne ed aveva concesso loro l'iscrizione nel 1869. In seguito la loro bravura e il loro successo negli esami aveva creato dissapore ed astio tra gli studenti maschi, sostenuti anche da alcuni professori, da un gruppo di cittadini e dalla stampa, come il quotidiano The Times, tanto da sfociare nel 1870 in una rissa. Le ragazze vennero bersagliate per strada con spazzatura e fango, oltre che insultate e urtate, e tuttavia imperterrite erano riuscite a entrare e a sostenere l'esame. Alla fine del 73 non venne permesso loro di laurearsi, poiché l'università sostenne il suo diritto di rifiutare l'ammissione delle 7 studenti ai corsi finali. Le 7 di Edimburgo ottennero in seguito la laurea a Parigi, come Elizabeth Garrett, o a Berna, come Sophia Jacques Blake. Elizabeth si mostrò all'inizio perplessa all'idea di Sophia, pensando che eventualmente la laurea rilasciata da una scuola di medicina esclusivamente femminile avrebbe potuto essere considerata di minor valore rispetto a quello conseguito in un'università solo maschile. La valutazione di Elizabeth fu che i tempi non fossero ancora maturi in Gran Bretagna e che quindi fosse necessario andare all'estero per laurearsi, mentre Sophia Jacques Blake, con forza e determinazione, rivendicava il diritto delle donne inglesi desiderose di studiare medicina di poterlo fare senza essere costrette ad espatriare per ottenere la laurea. La verità era che c'era bisogno di entrambe, dell'ardente pioniera Sophia, non meno che dell'abile e testarda stratega Elizabeth. L'istinto invitava Elizabeth a ritirarsi, ma sapeva che i nemici delle donne avrebbero accolto con gioia la sua mancata adesione. Se la scuola era inevitabile, pensava che allora l'unica strada possibile era quella del successo. La scuola, fondata con l'obiettivo di educare le donne alla medicina e consentire loro di superare gli esami che avrebbero permesso di iscrivere il loro nome al registro dei medici britannico, iniziò la sua attività nel 1874 con 14 giovani donne che rapidamente salirono a 23. Come insegnante di ginecologia venne chiamata anche Elizabeth Blackwell, di cui abbiamo accennato all'inizio di questa relazione e di cui parleremo più diffusamente, e che dall'America ritornò appunto in Inghilterra nel 74 per sostenere l'avvio della scuola. Le difficoltà di gestione della scuola si manifestarono subito nei primi 2 anni, poiché nessun ente esaminatore e nessun ospedale per la pratica erano stati trovati disponibili alla collaborazione con la scuola, che per questo stava vivendo la sua ora più buia. ma la luce arrivò. Russell Gurney, politico del Partito Conservatore, propose la legge che dava a tutte le commissioni mediche britanniche il diritto di ammettere le donne ai loro esami. E con questo atto, Medical Act 1876, le mura della fortezza crollarono. La scuola londinese di medicina per le donne venne riconosciuta e quindi le donne poterono laurearsi ed essere iscritte al registro dei medici per poter legalmente esercitare. Grazie alle conoscenze di persone influenti maturate da Sophia Jacques Blake durante le lotte ad Edimburgo, fu possibile raggiungere un accordo con il Royal Free Hospital di Londra come ospedale in cui fare pratica clinica. 5 giorni prima che giungesse la lieta notizia che il Royal Free Hospital aveva aperto i suoi reparti agli studenti della scuola, Elizabeth mise al mondo il figlio Alan, che mezzo secolo dopo ne sarebbe diventato il presidente. Elizabeth aveva 47 anni quando divenne preside della scuola e mantenne tale incarico per 20 anni e poi ne divenne presidente fino alla fine della sua vita terrena e quindi per più di 30 anni. Come riportato dalla figlia Louisa, dal momento della sua nomina la scuola, guidata ed ispirata da lei, fece progressi costanti e non solo strutturali ampliandosi, ma attraverso il suo esempio insegnò agli studenti l'etica della professione medica. Era vigorosa nella mente e nel corpo, traboccante di energia, non si sottraeva alle responsabilità, infondeva fiducia, era equa, aveva una testa per gli affari e brillava per le sue idee ben ponderate. Aveva dignità, poteva essere severa ma generalmente accessibile, elegante e caritatevole nel giudizio. Il suo coraggio era contagioso. Pur non ricordando i nomi e i volti degli studenti, tuttavia la sua benevolenza le abbracciava tutte. Coprì l'incarico di preside fino a 67 anni, epoca in cui si ritirò col marito a Holborough, città da dove era partita per la sua avventura medica. E da lì andava spesso in treno alla scuola, partecipando ai comitati e mancando raramente agli eventi sociali. Le necessità di ampliamento dell'ospedale divennero sempre più impellenti e dopo 22 anni in cui tutti gli interventi erano stati realizzati privatamente, nel 1888, per la costruzione del nuovo edificio, si ritenne necessario lanciare un appello pubblico per creare un fondo indispensabile per la realizzazione del progetto. Elizabeth, instancabile, partecipò a quasi tutti gli incontri pubblici per la raccolta fondi, continuando la sua attività ospedaliera. Il nuovo edificio e la sua attività era completamente avviata nel 1889 e prevedeva 42 posti letto ed un reparto di oftalmologia, diretto da Charlotte Hillaby, la prima chirurga oftalmologa dell'Inghilterra. Con il nuovo ospedale ricostruito e che continuava a coprire le spese fortemente aumentate, il compito che le rimaneva da svolgere era quello di assicurare il loro futuro. Decise, con non pochi rimpianti personali, che l'unico modo per farlo era di ritirarsi e di dare una possibilità alle donne più giovani. Alla fine del 92 annunciò che, pur continuando a svolgere il ruolo di consulente, aveva deciso di ritirarsi dal nuovo ospedale per le donne. Al comitato, allarmato, che la implorò di rimanere, poiché agli occhi del pubblico lei era l'incarnazione stessa dell'ospedale, propose la nomina di Mary Sharlib, che dopo una brillante carriera come studente alla London School of Medicine for Women, cioè la scuola fondata appunto da Elizabeth e da Sofia, aveva esercitato in India, guadagnandosi una grande reputazione per le sue abilità chirurgiche ed ostetriche. A quel tempo nessun'altra donna aveva avuto una formazione simile in chirurgia addominale e probabilmente pochi chirurghi eguagliavano l'abilità delle sue mani sottili che in maniera meravigliosa sembravano andare ovunque. Il comitato accettò la nomina, anche perché nell'85, durante una vacanza in Australia di Elizabeth con la famiglia, Mary Sharlib aveva avuto la responsabilità del reparto di chirurgia per 6 mesi, conducendolo in maniera egregia. Nella relazione annuale dell'ospedale per donne del 93, il comitato scrisse questa dichiarazione: alla indomabile energia e capacità di Elizabeth Garrett Anderson, l'ospedale deve non solo la sua fondazione e il suo grande e continuo successo, ma anche la posizione riconosciuta e consolidata delle donne medico in Inghilterra. Nel 1903, all'età di 67 anni, Elizabeth e suo marito lasciarono la loro attività lavorativa a Londra e si ritirarono a Holborough, nell'accogliente casa immersa nel verde. Dopo 4 anni della loro vita insieme in campagna, il marito lasciò il corpo ed Elizabeth fu invitata a completare il suo mandato di sindaco, che lei esercitò come prima donna inglese a ricevere questo incarico e l'anno successivo venne direttamente eletta sindaco. Durante l'incontro per la sua nomina, inaspettatamente, un consigliere si alzò dichiarando che non aveva nulla in contrario alla sua elezione, ma che le si dovesse far capire che durante l'anno del mandato non avrebbe dovuto invitare a casa sua la signora Pankhurst, all'epoca la più nota e attiva suffragista e leader del movimento sociale e politico delle donne, o chiunque altro praticasse le stesse attività, forse intendendo proprio la sorella di Elizabeth, Millicent, di cui abbiamo accennato sopra. Elizabeth, guardando l'ordine del giorno, rispose che il loro primo punto in discussione era la nomina degli assessori. La questione del voto alle donne era ciò che turbava il consigliere. In tutta l'Inghilterra se ne parlava e da 50 anni. Come Scuola delle Donne abbiamo dedicato diverse classi al tema e se ne lascia il link in descrizione. Allo scoppiare della Prima Guerra Mondiale nel 1914, Elizabeth era al di là della coscienza della tragedia, avendo perso la memoria. Tuttavia, nel settembre, all'età di 78 anni, si recò a Londra per vedere la partenza di Louisa, la figlia medica, con tutto l'equipaggio contrassegnato dalla Croce Rossa e dalla dicitura Corpo Ospedaliero Femminile. Tale servizio, data dalle donne mediche, era stato reso possibile principalmente per lei. Lei le salutò dicendo: «Mia care, se andrete ed avrete successo, farete avanzare la causa delle donne di 30 anni». Paradossalmente, mentre gli uomini si ammazzavano, le donne cercavano di tamponare gli effetti devastanti della guerra. Le infermiere, che grazie a Florence Nightingale avevano acquistato lo status di professioniste, e Marie Curie con la prima ambulanza radiologica, ovvero un mezzo mobile di sua invenzione, in grado di effettuare radiografie per poter localizzare ed estrarre le schegge dal corpo dei soldati anziché amputare. Passato l'uragano della guerra, Louisa ed Alan le scrivevano da Londra regolarmente e anche se lei teneva le lettere tra le mani sul grembo senza leggerle, sempre le portavano un messaggio che le dava tanto piacere. Prima che la sua mente si annebbiasse, passeggiando mano nella mano col nipote, gli confidò: «Colm, ho avuto una vita molto felice». Portava la felicità dentro di sé, con il suo lavoro trasmetteva alle altre donne. Elizabeth Garrett Anderson lasciò il corpo il 17 dicembre 1917, all'età di 81 anni, dopo aver lavorato per una sola causa, dalla giovinezza alla vecchiaia, contribuendo ad abbattere una dopo l'altra le barriere che fin dall'inizio della sua storia impedivano alle donne di lavorare, progredire, illuminare e servire.